Salve a tutti, questa è Radio Big World, io sono Jasmine e questa è la seconda puntata di Curiosità Animate, dove analizzerò i cartoni animati e le loro tecniche partendo dai classici Disney. Il secondo classico di cui parlerò è Pinocchio, che è considerato cronologicamente un secondo classico Disney. Il prodotto è stato distribuito nel 1940 e la trama è basata sul romanzo dello scrittore italiano Carlo Collodi, che pubblicò il romanzo nella seconda metà dell'Ottocento. Il titolo è Le avventure di Pinocchio. Con questo film Disney sperava di raggiungere il successo avuto con Biancaneve e Sette Nani, ma lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale non gli ha permesso di raggiungere l'obiettivo sperato. La trama, come per gli altri classici Disney, è stata molto adattata per essere più fruibile. Un falegname di nome Geppetto dà alla luce un burattino di legno, che si chiamava Pinocchio, che, attraverso molte avventure, vorrà diventare un bambino vero. Il concetto, quindi, di comportarsi bene e obbedire ai genitori è rimasto dal romanzo originale. Ma Disney e la regia, che vede molti nomi, come per esempio Ben Sharpestein, Hamilton Hughes e Norman Ferguson fra i primi, hanno apportato molte modifiche al design. Infatti Pinocchio, essendo un libro italiano, dovrebbe essere ambientato in una cittadina italiana, ma in realtà il film è ambientato in un paesino che sembra quasi bavarese. Questa scelta può essere ricondotta alla tendenza da parte degli studios di essere più iconici e riconoscibili possibile. Inserire quindi Pinocchio in un contesto europeo stereotipato era più semplice che documentarsi e riportare un paese toscano che sicuramente un pubblico estero non avrebbe riconosciuto. Pinocchio, quindi, come abbiamo citato prima, non ebbe un grande successo quando fu distribuito, ma fu apprezzato anni dopo e ad oggi è considerato uno dei classici più importanti della Disney, soprattutto per la cura che hanno messo nelle animazioni e nei dettagli. Il grillo parlante, che è per esempio la figura centrale del film e rappresenta un po' il narratore a discapito di Pinocchio, che nel libro è un personaggio più interessante ma nel film è reso un bambino molto ingenuo, è un personaggio molto caratteristico perché assomiglia a Topolino, alle stesse caratteristiche quindi di Topolino e dei personaggi più famosi Disney, però con questa caratteristica urbana che andava molto di moda negli Stati Uniti, quindi questo uomo d'affari che deve andare a lavorare come coscienza di Pinocchio. E altri personaggi molto iconici sono per esempio il Gattelavolpe oppure Mangiafuoco, che è il burattinaio che rapisce Pinocchio, che anche se ha uno screen time molto breve, grazie alle sue animazioni è diventato un personaggio molto iconico e anche molto carismatico. In conclusione, benché all'inizio non abbia avuto un immediato successo, Pinocchio è considerato un grande classico proprio per questa cura dei dettagli e per le animazioni molto curate e molto dettagliate, perché ogni personaggio ha la stessa importanza in ogni scena. Anche i personaggi secondari, come per esempio gli animali di Geppetto, Geppetto stesso, o anche le piccole cose che ci sono nel suo laboratorio, sono tutte animate con estrema cura e estrema attenzione. Anche se la trama non segue accuratamente quella del romanzo e la storyline del libro originale, comunque ne riporta la morale, che era anche molto importante per il tempo, dato che era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, quindi un po' di morale, un po' di buoni insegnamenti ai bambini sicuramente giovava. Ed è per questo che è diventato molto più apprezzato dopo e non durante. Grazie per avermi ascoltato, questo è Radio Big World, io sono Jasmine e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.